Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, mentre i mercati si avviano a chiudere tutti in rialzo, Parigi e Francoforte di un punto percentuale, Londra dell'1,40, l'America oggi aperta dello 0,90, che non va a chiudere chiaramente, più contenuto rialzo a Milano, mezzo punto percentuale. Dicevo, mentre i mercati si avviano a chiudere a rialzo in Europa, e già questo dovrebbe far capire qual è il giudizio sul vertice Ecofin dei ministri economico-finanziari che si è tenuto a Bruxelles. L'oggetto quasi unico all'ordine del giorno era il caso greco e come evitare che si crei un'epidemia, un effetto domino a livello europeo, quindi Grecia ma anche Spagna e Portogallo. La reazione è stata, come vedete, buona, anche e soprattutto andando a guardare un altro elemento, e mi riferisco all'euro. L'euro sul dollaro è a quota 1,3708, quindi è in leggero recupero, e questo vuol dire appunto che la pressione speculativa sull'euro sembrerebbe essersi allentata. Dicevo, mentre i mercati reagiscono bene, dal vertice di Bruxelles sono arrivate indicazioni, ma tutti si interrogano sul l'effetto di medio termine che avrà questa crisi greca. Alcuni osservatori infatti dicono: attenzione, il fatto che l'Europa si sia decisa, l'area euro, a salvare la Grecia significa in sostanza che si andrà verso una fase 2 di un'Europa, di un'Unione Europea, un'Unione Monetaria anche più politica e fiscale, non solo l'euro e i tassi di interesse, perché nel momento in cui, quando un paese non rispetta, trucca i conti e rischia di andare in default, e gli altri paesi, di fatto Germania e Francia, cioè devono salvarlo, a quel punto è ovvio che c'è di fatto un commissariamento delle politiche economiche di quel paese, e si inizia a ragionare su una prospettiva di un'Europa in cui si possa anche decidere le politiche fiscali e le politiche economiche a livello europeo, se poi tanto devi essere salvato. Un po' come avviene, se volete, in Italia per il patto di stabilità interno, cioè lo Stato centrale dice: se poi io devo salvare le regioni e i comuni quando sforano i tetti di bilancio, allora voglio avere anche potere di intervento su quelle che sono le loro scelte, o gliela faccio pagare per esempio sulle spese sanitarie aumentando l'IRAP. Questo è il primo tema di cui ci occuperemo, quindi Bruxelles, l'Europa che cerca di far quadrato per salvare se stessa, in realtà non per salvare la Grecia, sul caso greco. Poi parleremo come sempre di borse, vi dicevo tutte positive, con in particolare evidenza oggi a Milano Buzzi Unice in più 3,80, Mediolanum più 3% come Tenaris, il 3% rialza anche di Parmalat, l'1,90 quello di Telecom e di Campari, l'1,2 di rialzo del Banco Popolare e di Steam Microelectronics e di Bulgari, Intesa meno 1,6, Saipem meno 1,2, Fondiaria meno 1%, Geox mezzo punto percentuale di calo. Ancora, oltre alla Grecia e alla borsa, tratteremo i temi che riguardano la nostra produzione industriale. Insomma, venerdì scorso è arrivato il dato su un PIL italiano che cresceva meno delle attese nell'ultimo trimestre, addirittura col segno meno rispetto al terzo trimestre, e questo ha gelato un po' tutte le attese di una ripresa robusta. Ieri abbiamo commentato i dati sull'export, il bilancio del 2009, mai così male da quando esiste la serie statistica, e ragionando anche sul fatto che a questo punto quel poco di crescita dell'export che arriva, arriva dall'Asia, arriva dai BRIC, dai paesi emergenti, Brasile, Russia, India e Cina, meno la Russia, e che quindi l'intero apparato produttivo italiano deve ridefinirsi, mutare pelle, andare verso altri paesi. Oggi sono usciti i dati di Federmeccanica, che significa 12.000 imprese, quasi un milione di occupati, sono le imprese del settore metalmeccanico, meno 27%. La produzione industriale l'anno scorso, un dato pesantissimo, meno 35% se si prende il periodo che va da metà 2008 a fine 2009, con un ultimo trimestre dell'anno che non è stato esaltante, è continuato a essere debole, problemi sulla tenuta occupazionale, ma soprattutto anche bisogno e necessità dell'industria metalmeccanica di non riconvertirsi, ma di cambiare anche i mercati di sbocco. Questo è innegabile. 349-238-6666 per i vostri sms. È chiaro, vedo già alcuni messaggi, che parleremo in apertura anche dell'ipotesi di un buco da 9 miliardi avanzata oggi da un quotidiano italiano. Tremonti ha negato che vi sia un buco da 9 miliardi, ha detto non si tratta, è un fatto di contabilizzazione assolutamente noto. Un quotidiano oggi aveva parlato di un potenziale buco da 9 miliardi denunciato dalla Corte dei Conti, perché il Ministero dell'Interno non ha ancora saldato un debito che ha con la Banca d'Italia, che dal 1997 al 2002 ha anticipato agli enti locali i soldi per pagare gli stipendi dei dipendenti. Insomma, se volete un po' il gioco delle tre carte, il governo deve dei soldi, il Ministero, la Banca d'Italia, per soldi che la Banca d'Italia ha anticipato, è una partita di giro, Tremonti dice sono fatti assolutamente noti. Comunque, le altre notizie in breve. E come sempre partiamo dal petrolio, che è in rialzo a 75,5 dollari al barile. Buone le notizie dall'America sull'indice manifatturiero dello Stato di New York. È balzato a 25 punti e ha segnato il tasso di crescita più forte degli ultimi 4 mesi. Allora, i top manager europei, parliamo di bonus, però questa volta non ne parliamo sui manager bancari americani, che per carità sono stati da questo punto di vista i peggiori quanto a cattivo esempio, ma parliamo dei top manager europei che hanno ricevuto un bonus medio pari allo stipendio. Praticamente, secondo quanto riporta oggi Wall Street Journal, nella media dei manager europei il bonus equivale a un salario annuale. Praticamente il salario medio degli amministratori delegati europei delle 100 maggiori società è stato di 1.200.000 euro nel 2008 e anche nel 2009, e il bonus ha di fatto raddoppiato il loro salario medio. Tra l'altro, la cosa incredibile è che i bonus medi dei banchieri inglesi, dico incredibile perché le banche inglesi sono state quelle più massacrate in Europa dal crack finanziario per gli investimenti che avevano fatto, quasi a livello di quelle americane, se pensiamo che Royal Bank of Scotland è stata nazionalizzata, che altre banche hanno avuto problemi forti se non fortissimi, lasciamo stare poi il caso di Northern Rock, ma insomma quello che ha scoperto oggi l'analisi di Financial Careers, i bonus medi dei banchieri inglesi lo scorso anno sono saliti del 40%, complimenti, che molti dei professionisti del settore finanziario e bancari inglesi continuano a ricevere la gran parte dei bonus in contanti, quindi nemmeno vincolati a delle azioni da prendere fra 2, 3, 4 anni. Però è arrivata una buona notizia, perlomeno un buon esempio dall'Inghilterra: nessun bonus per i massimi dirigenti di Barclays, che è un colosso bancario britannico. L'amministratore delegato John Varley e il presidente Robert Diamond hanno infatti deciso di rinunciare per il secondo anno consecutivo alle proprie gratifiche, considerando le polemiche e gli scandali scoppiati intorno agli stipendi dei banchieri. La banca darà premi per 1,5 miliardi ai suoi dipendenti, 1,5 miliardi di sterline per il 2009 e 1,2 miliardi nei prossimi 3 anni. Buono comunque il dato oggi di bilancio di Barclays, tant'è che il titolo è andato benissimo in borsa in Inghilterra, più 10%, ha raddoppiato gli utili nel 2009. L'utile netto è salito a 10,7 miliardi di euro contro i 5 miliardi dell'anno prima, però qui c'è una cessione, cioè ha venduto la Barclays Global Investors e anche BlackRock, l'ha fatto a dicembre, forse lo ricorderete, con un controvalore di 8 miliardi di euro quasi, un po' di meno, 7 miliardi qualcosa, ma comunque il risultato oggi diffuso da Barclays batte tutte le stime degli analisti. Mercato europeo a gennaio più 13%, molto bene la quota del gruppo Fiat che sale al 9,2%, quindi mezzo punto percentuale in più rispetto al gennaio del 2009, anche perché le immatricolazioni Fiat sono state in Europa più alte della media, più 19,4%. E Fiat ha varato un nuovo piano di incentivo ai manager, un incentivo in azioni, 2 milioni di azioni ordinarie Fiat per Sergio Marchionne e comunque assegnazione gratuita di azioni legate al raggiungimento degli obiettivi. 6 milioni di azioni sono destinate ai manager con ruolo significativo che verranno individuati dall'amministratore delegato, appunto Marchionne. Il piano sarà presentato nella prossima assemblea degli azionisti, per il 26 e il 27 marzo. Di Federmeccanica abbiamo detto, chiudiamo con un'ultima notizia. Ferrovie dello Stato, l'ho detto di Federmeccanica, ma ne parleremo soprattutto alle 18.15 con il direttore generale di Federmeccanica. I problemi del comparto, meno 27% la produzione del 2009. L'ultima notizia, di notizia in breve, riguarda invece le Ferrovie dello Stato, che oggi hanno diffuso i dati sul 2009. Nel 2009, secondo quanto dichiarato da Mauro Moretti, dovrebbe chiudersi il 2009 con 40 milioni di euro di risultato netto positivo, per l'FS Holding sarebbe di 80 milioni di euro, un anno incredibile, lo ha definito il 2009 Moretti, in controtendenza rispetto a tutti gli altri anni, che permetterà appunto di migliorare i conti anche sul 2008. Tra l'altro, in mattinata Moretti aveva partecipato al convegno sulle difficoltà nel realizzare le grandi opere infrastrutturali e ha chiarito la nostra Chiara Grandis come mai le ferrovie negli ultimi anni non avrebbero subito particolari contestazioni per le opere realizzate. Noi abbiamo fatto tantissimi investimenti in questi ultimi anni. Il completamento dell'alta velocità da Torino a Salerno ne è un esempio, sono 1000 chilometri di rete nuova in luoghi anche molto sensibili e non abbiamo avuto particolari contestazioni, intendendo per contestazioni delle vere quantità di opposizione all'opera. Abbiamo avuto normalmente una buona collaborazione con le istituzioni e anche i luoghi per poter far condividere alle persone gli inserimenti territoriali. Abbiamo invece delle difficoltà laddove, prima ancora che i cittadini, vi è una contrapposizione delle istituzioni locali. E allora bisogna meditare su questo, bisogna meditare sul modo di come coinvolgere le istituzioni locali, che sono sempre l'espressione dei cittadini, ma a volte sanno anche in qualche modo alterarne il parere e il consenso. Esempio più tipico sulle Alpi, confronto sempre la situazione che abbiamo sul Brennero, dove non ci sono particolari problemi, e sulla Val di Susa, sono opere assolutamente comparabili, con territori assolutamente comparabili, però la storia sono completamente diverse. Così Mauro Moretti, numero uno delle Ferrovie dello Stato, a dire il vero, insomma Moretti ha tutta la nostra stima e simpatia, a dire il vero qualche contestazione le Ferrovie dello Stato nel 2009 l'hanno ricevuta. Vorrei ricordare due episodi, uno in cui c'entrano ma fino a un certo punto, e mi riferisco ai costi stratosferici quadruplicati dell'alta velocità tra Milano e Torino, dei costi che sono 5 volte quelli della media europea in un tratto che, insomma, la Pianura Padana è uguale alla Francia, è uguale a altre zone della Germania. Costi lievitati perché, insomma, lì il general contractor, insomma, non si è capito bene delle opere faraoniche, basta, insomma, percorrere la Milano-Torino per capire che ci sono svincoli che sono più degni di un'autostrada di Los Angeles che di un tratto come quello per andare in paesi della Pianura Padana. Ci sono state inchieste anche su questo. Moretti dice che la responsabilità non è loro ma del general contractor. Le polemiche che hanno riguardato le Ferrovie dello Stato in maniera diretta invece riguardano, se mi permette sempre Moretti, il funzionamento dell'alta velocità, da un lato, con numerosi ritardi, lasciamo stare la neve, i ritardi in generale anche sulla Milano-Bologna, anche sulla Milano-Roma, e poi, permettesse sempre Moretti, anche per quello che riguarda il servizio dei treni fornito. Insomma, abbiamo scoperto che, abbiamo fatto una puntata su questo, benissimo andare da Milano a Roma in tempi record, però 4 treni che non siano Freccia Rossa soli in tutta la giornata per andare da Milano a Roma sono un po' pochini, anche perché molta gente, pensionati e studenti, potrebbero non avere nessun bisogno di andare giù risparmiando un'ora, ma vorrebbero spendere magari la metà. E poi le polemiche sui pendolari. Comunque non facciamo la puntata oggi sulle Ferrovie dello Stato, la facciamo su Bruxelles, la riunione dell'Ecofin, in cui i ministri finanziari dell'Unione Europea devono approvare le raccomandazioni della Commissione Europea alla Grecia. Raccomandazioni che prevedono un taglio di 4 punti percentuali del deficit greco nel 2010 e un monitoraggio costante sull'attuazione del piano di risanamento delle finanze del paese. Allora, colleghiamoci subito con Adriana Ceretelli, corrispondente sulle 24 ore da Bruxelles. Buonasera Adriana. Buonasera. Mentre saluto, perché ci ha raggiunto in collegamento anche il presidente dell'Istituto del Centro per gli Studi Politici Europei, che è Daniel Gross, Centre for European Policy Studies. Buonasera, presidente. Buonasera. Allora, Adriana, che cosa è emerso? Perché insomma, ieri abbiamo parlato di Goldman Sachs, di JP Morgan, che hanno guadagnato aiutando la Grecia a truccare i conti, ma era legale, l'hanno fatto anche con altri paesi. Alla fine, che cosa è uscito da questo consiglio Ecofin? Adriana. È uscito quello che ci si aspettava, nel senso che le raccomandazioni sono state approvate, cioè è stato approvato il piano triennale di stabilità della Grecia, che prevede appunto la riduzione di 4 punti percentuali del deficit entro quest'anno, ma a parte questo direi che la stretta, le pressioni sulla Grecia sono decisamente aumentate, nel senso che si chiede alla Grecia di adottare, qualora appunto si verificasse uno scostamento dagli impegni, già misure supplementari dal marzo prossimo, quindi avrà un mese di tempo per dimostrare di fare sul serio, altrimenti dovrà adottare o nuovi tagli di spesa oppure nuove tasse. Dopodiché alla fine dell'anno probabilmente dovrà adottare nuove misure, in sostanza diciamo che l'approvazione delle raccomandazioni si accompagna a un calendario attentissimo circa proprio la messa in atto effettiva. Poi ci sarà una missione della Commissione insieme alla Banca Centrale e al Fondo Monetario, che già verso la fine della settimana o al massimo il principio della prossima si recherà in Grecia per vedere quanto delle misure già annunciate sono state attuate. Insomma, non si lascia alla Grecia spazio per nessun tipo di deriva. Questo perché in questo modo si spera di convincere i mercati della credibilità degli impegni presi da Atene, e quindi si spera di evitare un piano di salvataggio eventuale qualora appunto ci fossero nuovi attacchi speculativi contro la Grecia, soprattutto contro l'area euro. È un po' questo il senso della manovra che si è varata oggi. Bisognerà a questo punto vedere dove si va a finire, nel senso che Papandreou, per esempio, nonostante lo scetticismo della Commissione, non Papandreou, il suo ministro Papa Costantino ha detto no, i nostri conti non vanno affatto male, per esempio in gennaio noi siamo in surplus, quindi c'è sotterraneo, diciamo, una sorta di braccio di ferro tra l'Europa, che vuole alzare molto il prezzo della sua eventuale solidarietà alla Grecia, e la Grecia che dice noi non vogliamo aiuti e non vogliamo evidentemente nemmeno una camicia di forza insostenibile di fronte a un'opinione pubblica che ovviamente non è felice di questo. No, ma che l'opinione pubblica greca non sia felice di avere un taglio della spesa sociale, un aumento dell'età pensionabile, siamo d'accordo, però è anche chiaro che la Grecia in questo momento deve rendersi conto che l'aver truccato i conti, non il governo Papandreou, il governo precedente, e averli truccati anche di tanto, aver detto che era al 3,9 il deficit e poi scopriamo che era quasi al 13, beh, insomma, una punizione te la devi aspettare da un lato, e dall'altro le conseguenze di questo trucco le abbiamo pagate tutti noi, con pressioni sui BTP, sulle obbligazioni europee, e con pressioni sull'euro, insomma, con gli speculatori che giocavano a vedere se la Grecia e poi la Spagna e il Portogallo uscivano dall'area euro. Comunque vorrei affrontare invece il tema del, tra virgolette, commissariamento della Grecia come in realtà elemento positivo, cioè magari da questa crisi nasce un'Europa più forte, o meglio si crea il precedente per cui uno Stato che aderisce all'euro non è realmente completamente sovrano nel fare debito, al di là di Maastricht. Perché se poi io ti devo salvare, allora a questo punto forse è il caso di iniziare ad avere politiche economiche, fiscali, collettive, forse anche politiche tout court. Prima però sentiamo il commissario degli affari economici e monetari dell'Europa, Olli Rehn, che ha spiegato appunto che cosa farà, le cose pronte a fare l'Unione Europea per la Grecia. E poi subito dopo sentiamo anche il ministro Tremonti, che ha spiegato che l'Italia nei confronti della Grecia è esposta solo per 8 miliardi come sottoscrizione del debito, mentre la Germania ha 35 miliardi, la Francia addirittura 80 miliardi. Allora, Rehn e poi Tremonti. We recognize the bold measures Riconosciamo che la Grecia ha preso misure ambiziose e riconosciamo anche la determinazione del governo greco di migliorare il piano di rilancio. La prossima settimana rappresentanti della Commissione UE saranno ad Atene assieme ad esperti della Banca Centrale Europea e a delegati dell'FMI per verificare l'attuazione e i primi risultati delle misure annunciate dal Premier Papandreou. La Commissione europea è responsabile del monitoraggio delle misure proposte dalla Grecia e farà la sua prima valutazione a metà marzo. Inoltre, siamo pronti a proporre nuove misure se sarà necessario. Possiamo aiutare la Grecia in questo momento difficile, ma Atene deve essere pronta ad aiutare se stessa, adottando azioni decise. Già la scorsa settimana i massimi dirigenti europei hanno chiaramente indicato che, se sarà necessario aiutare Atene, assumeranno misure di intervento coordinate per salvaguardare la stabilità finanziaria nell'area euro. If needed to safeguard financial stability in the euro area. Sulla Grecia, ma sono i dati della banca di Basilea sui regolamenti, a noi risulta che l'Italia è esposta, il sistema Italia, per 8 miliardi, quello tedesco per 35 circa e quello francese per 80. Quando io ho detto che nelle banche italiane non si parlava inglese, ed era un modo, se volete, un po' semplice, un po' popolare, per indicare la caratteristica conservativa delle banche italiane. Qualche banchiere che sapeva l'inglese ha considerato offensiva questa frase. In realtà io non volevo escludere la conoscenza, l'attitudine semantica dei nostri banchieri, quanto proprio il fatto che le banche italiane erano un po' fuori da quei meccanismi, no? Ed è la verità, nel caso della Grecia lo verifica, anche nel caso di altri paesi. Così il ministro Giulio Tremonti sull'esposizione italiana, poi sentiremo Tremonti dire che non esiste alcun buco da 9 miliardi. Però Daniel Gross prima e poi Adriana Cerretelli. Allora, il tema, al di là del salvataggio della Grecia, del fatto che l'asse franco-tedesco ha fatto capire ai mercati che non si lascerà la Grecia andare alla deriva e viene in parte commissariata, uso un termine forte. Insomma, Daniel Gross, oggi l'editorialista del Financial Times, Wolfgang Münchau, dice: attenzione, magari da questa vicenda potrà nascere una vera Unione Europea, non solo la moneta unica, non solo i tassi di interesse, ma si stabilisce il precedente che, al di là di quello che prevede Maastricht, il Trattato di Lisbona, se un paese aderisce all'euro non può essere lasciato così saltare per aria, anche se piccolo come la Grecia, perché le pressioni dei mercati finanziari sono così alte che ci rimettiamo tutti. È d'accordo o no? Sì, la speranza c'è. C'è la speranza che i nostri leader politici imparino da questa situazione, che è molto difficile, e approcciano il problema in modo diverso. Purtroppo per il momento non si vede questo. Quello di cui non si è parlato oggi all'Ecofin è quello di come affrontare questo problema nel futuro anche per altri paesi. Perché attenzione, dietro la Grecia ci potrebbe essere il Portogallo e la Spagna, e l'Unione Europea non può salvare tutti questi paesi uno dopo l'altro. Per cui quello che manca per me, per il momento almeno, è la consapevolezza che qui non si tratta di un problema greco solamente, ma di un problema potenzialmente molto più importante, sistemico, che andrebbe affrontato con la creazione di un nuovo sistema, di una politica finanziaria comune, ma per il momento l'Ecofin non ne ha discusso. Adriana Cerretelli, anche per te la stessa domanda, fermo restando che la Corte Costituzionale tedesca ha stabilito che la politica economica nazionale deve rimanere di competenza dei singoli stati. Allora, la Germania si muove su un percorso molto stretto, perché da un lato non può rischiare appunto pressioni, speculazioni sistemiche, quello che abbiamo visto capitare nelle scorse settimane, quando qualcuno ha iniziato a scommettere che l'euro non avrebbe tenuto, avrebbe avuto difficoltà, però c'è una resistenza anche in Germania, non solo in Germania, a perdere così l'autonomia fiscale della politica economica. Tu che sensazione hai ricevuto oggi con i vari ministri presenti? Ma io ho la sensazione che naturalmente si proceda su un campo politicamente minato, però sono anche convinta che l'unione monetaria è arrivata a un bivio dopo 11 anni di vita. è arrivata alla sua prima vera crisi ed è in fondo andata a toccare dei nervi scoperti che si sapeva fin dall'inizio che erano scoperti, perché si sapeva che fare un'unione monetaria senza fare un'unione economica avrebbe potuto portare a questi problemi, e fortunatamente sono dei problemi che riguardano un paese microbo come la Grecia, che rappresenta il 2,7% del PIL dell'area totale dell'euro, quindi è un problema sostenibile in sé. Il problema è l'impatto psicologico e l'impatto politico di una cosa di questo genere, e quindi il fatto che i mercati naturalmente possono cominciare dalla Grecia per attaccare dei bocconi ben più importanti. Io credo che a poco, come sempre in Europa ci vuole del tempo, ma a poco si andrà verso il governo economico europeo, nel senso che ci sarà politiche macroeconomiche, microeconomiche sempre più coordinate. Non penso a un'armonizzazione, non penso ancora a una politica economica unica che sia il contraltare perfetto della politica monetaria unica, ma credo che in ogni caso, per esempio, gli enormi divari di competitività tra le varie economie che sono stati accumulati in questi anni, ecco, questo sia un problema che molto probabilmente verrà affrontato. D'altra parte, la strettissima sorveglianza alla quale è sottoposta la Grecia è un indice di questo nuovo orientamento. E d'altra parte, una moneta unica implica un esproprio di sovranità, è un esproprio graduale. Il primo esproprio è stato quello della moneta, della gestione monetaria, ma prima o poi, inevitabilmente, se questa moneta deve tenere, dovrà portare a un esproprio della sovranità anche economica, magari, e magari anche fiscale, e anche di quella politica, perché alla lunga se no non può tenere questo progetto. E d'altra parte, oramai rinunciarci penso che abbia un prezzo altissimo per tutti. Vabbè, penso che sia inimmaginabile tornare al franco, al marco e alla lira. Comunque, dicevo anche la politica fiscale, visto che poi vi leggerò le dichiarazioni dei redditi nel 2000, praticamente nel 2008 un terzo degli italiani ha pagato zero IRPEF. Se fosse così la situazione, saremmo un popolo praticamente più da Repubblica Centroafricana che da Unione Europea, con tutto rispetto per la Repubblica Centroafricana. Magari se anche il fisco venisse pagato come nel resto d'Europa, le nostre casse sarebbero meglio. Comunque, l'ultima domanda che ho per voi due, vi chiederei solo di pazientare, c'è il meteo e la pubblicità, riguarda un tema che alcuni ascoltatori sollevano al 349-238-6666. In realtà, scrivono come una battuta, vabbè, in realtà è nato il Sacro Romano Impero più che una nuova Europa. Cioè l'asse Parigi-Berlino-Franco-Tedesca ha deciso che cosa si doveva fare della Grecia. Ci può essere questo rischio? Cioè, torniamo a un vecchio timore, spettro, ipotesi, che poi questa Europa si basi solo sul rapporto Franco-Marco? La risposta dopo il metro e pubblicità, e poi commentiamo la borsa che ha chiuso con un più 0,80, mentre l'euro si sta rafforzando, a dimostrazione che le speculazioni si sono allentate, è a quota 1,373 sul dollaro. Ci risentiamo dopo il meteo. ...17:40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, concludiamo l'approfondimento sul vertice dei ministri economico-finanziari. Al di là di quanto deciso, massimo sostegno alla Grecia e tentativo di tranquillizzare i mercati, ci stavamo interrogando se possa da questa crisi, dalle ceneri, diciamo, risorgere come un'araba fenice, una nuova Europa fatta anche di politiche comuni, politiche fiscali, politiche economiche, politiche, e se però il rischio non sia di in realtà ricreare il Sacro Romano Impero, l'asse del renano franco-tedesco. Alla fine Parigi e Berlino si sono messi d'accordo e hanno deciso di tranquillizzare i mercati. Non stiamo parlando dei sacrifici della Grecia, perché ho capito che devono rinunciare agli introiti delle future lotterie, dei pedaggi autostradali, l'entrata degli aeroporti, aumentare le pensioni. Questo già lo sapevamo. Allora, Daniel Gross prima e poi Adriana Ceretelli. C'è il rischio che poi questa nuova Europa fatta di politiche comuni sia in realtà un asse Berlino-Parigi? Non è un rischio. È una realtà. Perfetto, Grosso. E allora noi veniamo spinti nell'area mediterranea, dove già per buona parte siamo, diciamo geograficamente. Ma durante l'impero, Sacro Impero Romano, l'Italia era la parte economicamente più progredita. Più progredita? Sì, durante il Medioevo l'Italia aveva delle città sorrenti e delle economie molto forti. Sì, lei sa che la storia non si ripete mai se non sotto forma di farsa. Comunque, andiamo avanti. Diceva Marx, non io. Il problema adesso è che dal punto di vista economico il rapporto di forza si è invertito. Quando si parla di governo economico sarà sempre senza dubbio un governo molto asimmetrico. Cioè i più bravi, i più forti non avranno dei vincoli. I vincoli si applicheranno solamente ai governi e alle nazioni più deboli. E anche quando si parla dell'asse franco-tedesco in questi giorni bisogna dire che è un asse molto sbilanciato. Perché in verità sono i tedeschi a decidere. Se loro non vogliono, non si può fare niente. Se loro invece sono disposti a fare qualcosa, chiamano i francesi e gli chiedono se siete d'accordo e loro dicono sì, non c'è altro da fare, a questo punto si va in avanti. Sì, va anche detto grosso, e poi sentiamo anche Adriana Ceretelli, che l'Italia in questo caso non è che ci verrebbe voglia di fare gesti scaramantici, ma non sta rappresentando un problema. Nel senso che abbiamo il debito più alto, ma ce l'avevamo anche prima. Il deficit nostro è salito, ma è salito molto di più in proporzione a quello tedesco e anche forse francese. Non abbiamo la situazione di bolla immobiliare della Spagna, né la debolezza e la fragilità del Portogallo e della Grecia. Ma lei dice non basta un anno buono per entrare nei club dell'asse franco-tedesco? Ma una cosa è non essere, come dire, tra i peggiori, tra quelli che sono un problema per gli altri, altra cosa è far parte del direttorio, perché per fare parte di questo gruppo molto ristretto, appunto, non basta un anno, ci vuole un decennio, magari 20 anni di una politica fiscale molto restrittiva, anche una competitività molto maggiore dell'economia, e solamente con questo e con delle riforme strutturali l'Italia potrebbe ambire di fa parte di questo asse franco-tedesco, ma prima di questo passeranno alcuni anni. E non c'è il rischio che tutto questo asse nasca perché insomma la Germania vuole mettere a presidente della Banca Centrale Europea un tedesco, che è l'attuale numero uno, e c'era l'ipotesi invece che altri paesi appoggiassero fortemente Mario Draghi, che piace molto alla comunità anglosassone, presidente del Financial Stability Board e Forum, insomma, quindi il massimo organismo di stabilità. Non c'è stato anche uno scambio molto più politico? Troviamo un accordo e poi però vi fate leggere un tedesco alla BCE? No, penso che chi sarà il prossimo presidente della BCE è veramente secondario per i tedeschi rispetto alla domanda chi pagherà e quanto e sotto quale condizioni per la Grecia, magari anche per il Portogallo e altri paesi. Adriana, c'è... Prego, scusi. Quando si tratta di questioni finanziarie di questa importanza, il nome del presidente della BCE non è uno scambio. Quello che non è secondario, naturalmente, è l'approccio della BCE, che rimanga com'è, cioè che rimanga il guardiano della stabilità dei prezzi. Che rimanga la Bundesbank, grossa, cioè che sia ossessionata dall'inflazione. Su questo abbiamo espresso molti, molti dubbi nel passato, però l'ossessione per l'inflazione, lo ripetiamo, nasce con la memoria storica tedesca, la Repubblica di Weimar e poi il nazismo che ne conseguì. Adriana Ceretelli, da questa crisi l'Europa si restringe, cioè ritorna all'asse renano, chiamatelo come volete, e noi veniamo un po' esclusi, e veramente la Banca Centrale Europea non c'entra niente come partita? No, la Banca Centrale Europea sicuramente io non credo che c'entri, anche se ci sono delle voci che secondo me vengono messe sempre in giro di questi periodi, ma detto questo non significa che Francia e Germania non abbiano fatto un patto per diciamo disporre della prossima presidenza della BCE, ma questo a prescindere dal problema greco e dalla crisi dell'euro. Il fatto poi che Francia e Germania siano tornate a parlarsi diciamo in una maniera più costruttiva, perlomeno in questa fase, perché poi l'asse franco-tedesco non è più così armonico come in passato, secondo me è sempre una buona cosa per l'Europa, a prescindere dai rischi direttori. Tanto, voglio dire, sono i due paesi più grossi e per certi aspetti sono fisicamente ingombranti in ogni caso. Però se mettono il loro peso al servizio di un'Europa più efficiente, più capace di contare nel mondo, più capace di autoriforma, quindi di competere sulla scena globale, penso che sia nell'interesse di tutti quelli che appartengono a questa Europa, noi compresi. Quanto al fatto che noi possiamo entrare o meno nel direttorio, ma secondo me oramai questo è un problema, diciamo, un po' di lana caprina. Cioè, tanto non c'è, ho già capito. Avremo la forza per entrarci, ci entreremo senza che nessuno ce lo chieda. In questo momento evidentemente non ce l'abbiamo, l'abbiamo persa, o comunque non siamo in grado, o non siamo considerati da dei co-partner in quel direttorio. D'altra parte, sul piano economico è vero che in questa crisi abbiamo fatto meglio degli altri, ma è anche vero che ci trasciniamo delle palle al piede dietro, che ovviamente condizionano, certo, la nostra statura europea. Insomma, abbiamo dei numeri che non sono certamente esemplari. Allora, io ringrazio, al di là del fatto che li abbiamo tenuti sotto controllo. Sì, no, ma è vero, infatti così rispondo anche a alcuni ascoltatori. Non, nessuno ha detto che siamo messi meglio degli altri, abbiamo detto che non siamo andati peggio degli altri, c'è una bella differenza, e abbiamo ricordato che veniamo comunque dal debito più alto d'Europa, e quindi questo te lo porti dietro tutta, non tutta la vita, spero, ma insomma te lo porti dietro come eredità. Grazie alla corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Adriana Ceretelli, grazie al presidente del Centro per gli Studi Europei di Bruxelles, Daniel Gross. Alcuni di voi scrivono, ma insomma avete visto com'è lunga l'Italia? Sì, lo sappiamo che l'Italia è lunga, invece il tempo è corto. Traffico, pubblicità e poi la borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di mercati. Vedo anche alcuni commenti così un po' politici, un po' leghisti, su dove deve fermarsi l'Italia. Ma figuriamoci, il tema vero dell'asse franco-tedesco. Vedo anche che molti ascoltatori dicono: vabbè, meno male che ci sono loro, che sono paesi seri. Anche qui piano con l'esterofilia, però sicuramente un'Europa forte farà bene anche l'Italia. E sicuramente, diciamo, la politica fiscali, l'evasione fiscale, la produttività dei dipendenti pubblici è più alta in questi paesi, l'efficienza della spesa pubblica è più alta e la difesa del paese è più alta. Non so, a me è fatto abbastanza specie vedere che nessuno in Italia abbia così fortemente appoggiato l'ipotesi di Mario Draghi a presidente della Banca Centrale Europea. Comunque la borsa più 0,80%, Milano più 1,7%, Parigi più 1,5%, Francoforte più 1,5%, anche Londra bene, l'America più 1,20%, tutto in miglioramento nel finale delle borse. Milano cresce un po' meno, più 0,80%, molto bene in Inghilterra, Barclays dopo i conti migliori di ogni attesa. Da noi Mediolanum più 3,6%, Buzzunice più 3,5%, Parmalat più 3,3% come Tenaris, il 2,5% lo guadagna Campari, il 2,3% Telecom, il 2,1% Exor, l'1,70% ST Microelectronics, l'1,50% sia Bulgari che la Banca Popolare di Milano, Enel più 1,3% come Banco Popolare e Italcementi ed anche Eni, UbiBanca più 1,1%, Fiat più 0,90%, chi va male Intesa meno 1,1%, Saipem meno 0,90%, Fondiaria meno 0,60%, Geox mezzo punto percentuale di calo, le Cirlo 0,4%. Chiudo la carrellata con i migliori e peggiori in assoluto. Classe Editori più 5,30%, Fidia più 10%, Landi Renzo più 4,90%, Caltagirone più 4,70%, Philips più 4,60%, bene anche Danone più 4,20%. Chi ha perso di più? Terni Energia meno 12%, Pramac meno 10%, poi Richard Ginori meno 7,22%, Seat sulle risparmi meno 6,5%, di nuovo Seat Therapeutics meno 5,70%. Paolo Paronetto, Radio Colli sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Buzzunice ha rimbalzato, insomma aveva perso il 22% da 19 gennaio, quindi c'è anche una correzione tecnica. Mediolanum, qui c'entra lo scudo fiscale? Sì, per quanto riguarda l'andamento di Mediolanum, che è stata tra i migliori del listino fin dall'avvio e come dicevi tu ha chiuso con un rialzo del 3,66%, gli operatori segnalano i dati annunciati ieri dall'Associazione Italiana Private Banking, che hanno rivelato che sui 95 miliardi di asset rientrati in Italia grazie allo scudo fiscale, 44, e quindi poco meno della metà, sono stati indirizzati a istituti che operano nel private banking, come appunto Mediolanum, che è stato tra i titoli i premiati già ieri il titolo aveva guadagnato il 2,5%, e quindi che secondo gli operatori è tra i titoli che più hanno beneficiato di questa iniziativa e quindi oggi è stato premiato dagli investitori. Allora, volete sapere di Unicredit perché non l'ho letta? Avete ragione, come quasi sempre, ma adesso la trovo perché non riesco a trovarla nel... Eccola qua, più 0,87% a 1,96 euro, bene anche Mediobanca, più 0,60 come Pirelli, Finmeccanica e Prismian, e Ansaldo STS, Fiat, altro titolo, più 0,90%. Allora, Fiat approfitta dei dati europei, molto buono il dato complessivo di Fiat sulla media europea, ma Telecom Italia oggi ci ha fatto vedere una giornata abbastanza interessante come movimenti, tant'è che chiude in rialzo del 2,3%. Telecom rimane ovviamente sotto i riflettori ormai da giorni, gli spagnoli, sì, su questa ipotesi di una fusione o di accelerazione in questo progetto di fusione con gli spagnoli di Telefonica, nonostante ieri da Madrid il ministro Sebastiano Spagnolo abbia definito, insomma, abbia invitato a non mettere in giro falsità sul tema. Oggi a tenere banco sono le indiscrezioni su un pranzo tra il presidente di Mediobanca Cesare Geronzi e il presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo, Giovanni Bazzoli, che avrebbe dovuto avere all'ordine del giorno proprio la questione Telecom, pranzo che non ha trovato riscontri, non è stato individuato dai cronisti un incontro tra i due banchieri, e comunque sicuramente il rincorrersi di voci sul tema continua ad alimentare la speculazione e la borsa continua a scommettere che qualcosa su questo fronte arrivi. Telecom ha guadagnato il 2,31% sopra gli 1,1 euro per azione. Questo per quello che riguarda Telecom Italia. Sì, io penso che sulla vicenda Telecom influisca anche non poco il problema del bilancio spagnolo, ossia, con questi chiari di luna la Spagna non è che può proprio permettersi di finanziare mega operazioni, ma è una mia impressione. Le banche spagnole sono comunque tra virgolette sotto osservazione, però faccio felice un ascoltatore, anzi alcuni ascoltatori che mi chiedono sempre il titolo del Sole 24 Ore. Da quando il gruppo è quotato abbiamo precisato, al di là del giorno della quotazione, che noi parliamo di tutti i titoli, solo delle variazioni principali, quindi chi fa meno 0,2 più 0,2 non lo citiamo, non possiamo citare tutto il listino. Vi do il valore meno 0,23% oggi il Sole 24 Ore a 1,70 euro, e in via eccezionale, visto che arrivano messaggi ogni giorno, lo diamo. Però, ripeto, il criterio è uguale per tutti i titoli, solo le variazioni principali. Ecco perché vorrei parlare, tra i titoli di oggi, anche dei bancari e soprattutto di, da un lato, Intesa San Paolo, ma dall'altro del settore, perché abbiamo visto poco in Italia di quel movimento invece che ha interessato Barclays dopo i dati. Intesa addirittura il peggior titolo, meno 1,1% a 2,60 euro. Per quanto riguarda i bancari, come ricordavi tu, i conti di Barclays migliori di tutte le attese hanno spinto il settore in Europa, tutte le banche inglesi, ma non solo, hanno guadagnato molto terreno a livello di settore. Il sottoindice europeo ha guadagnato quasi il 2%, mentre in Italia in effetti tengono più banco, diciamo così, delle questioni specifiche che riguardano i singoli istituti. È il caso appunto di Intesa, che è stato il peggior titolo tra le blue chip milanesi, ha perso l'1,15% a 2,59 euro, e su Intesa l'attesa è appunto per venerdì, quando arriverà il parere dell'antitrust sul caso Generali Crédit Agricole. Il mercato, secondo alcune ricostruzioni, secondo quanto riporta anche oggi la stampa finanziaria, teme che l'istituto possa essere sanzionato per almeno 500 milioni, ricordiamo, per la mancata discesa dell'Agricole nel capitale di Intesa e poi anche per il patto stretto proprio dall'Agricole con le Generali, oppure in alternativa che l'Agricole sia costretta a vendere la propria quota o almeno parte della quota, che oggi è pari al 5,8%, ovviamente con ripercussioni sul valore, certo, del titolo in borsa. Grazie Paolo Paronetto. Adesso il GR, poi parliamo, come promesso, da un lato dei 9 miliardi presunti di buco nei nostri conti smentiti dal ministro Tremonti, sentiremo anche Mauro Moretti dichiarare che il 2009 è il migliore anno possibile delle 2000 per le Ferrovie dello Stato, e parleremo dei dati del settore metalmeccanico, quasi 1 milione di addetti. 18:10 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di, del presunto buco smentito oggi dal ministro Tremonti da 9 miliardi nei conti pubblici italiani. Vi faremo riascoltare, perché sono arrivati molti messaggi al 349-238-6666, le dichiarazioni del numero uno delle Ferrovie dello Stato Moretti, che ha, alcuni si sono arrabbiati perché ha definito il 2009 un anno fantastico, si riferiva ai conti. Comunque lo faremo ascoltare e poi parleremo del comparto della metalmeccanica. I dati oggi sul 2009 sono pesanti, ma insomma continuiamo la nostra indagine nei vari settori produttivi per parlare di numeri e non di idee, di opinioni. 349-238-6666 per i vostri sms. Dunque, oggi a margine del vertice Ecofin, e quindi Grecia e ancora Grecia, di cui si è discusso a Bruxelles, il ministro Tremonti ha smentito quanto riporta oggi da un quotidiano italiano della presenza di un buco da 9 miliardi di euro nei conti. In sostanza veniva detto che la Corte dei Conti ha rivelato che il Ministero dell'Interno non ha ancora restituito alla Banca d'Italia 8 miliardi e 890 milioni di euro che la Banca d'Italia ha dato al posto del governo, diciamo, dal 97 al 2002, li ha anticipati questi soldi agli enti locali per pagare gli stipendi dei dipendenti. Sentiamo Tremonti su questo. Noi facciamo uscire adesso un comunicato dal quale risulta che non esiste alcun tipo di buco, è solo un fatto di contabilizzazione assolutamente noto e aproblematico. Diciamo che è un non problema. E ministro Tremonti, sempre sull'Italia, ha anche detto: l'Italia non è peggio degli altri, lo dicono i numeri, il tempo sarà grand'uomo. E tra l'altro i dati europei ci dimostrano che avere più deficit non significa avere più crescita. E sulle pensioni, la Grecia, buona parte della manovra greca per salvarsi si gioca sulle pensioni, ha detto non è un problema. Si apre anche la questione in Europa sulla sostenibilità di lungo periodo dei debiti. Sulle pensioni io credo che molti hanno dei problemi, non l'Italia, perché il coefficiente di copertura necessario è 1,4 per l'Italia, per la Germania è 4,2, la media europea è 6,5. Quindi è un problema, ma non è un problema per l'Italia, perché noi la riforma l'abbiamo già fatta. E proprio in questo istante il ministro al welfare e alla salute Sacconi ha ribadito: in Italia le pensioni non si toccano. Altra vicenda, le Ferrovie dello Stato stimano un utile nel 2009 a 40 milioni per il gruppo e di 80 milioni per FS Holding. E poi sempre il numero uno Mauro Moretti ha spiegato al microfono della nostra Chiara Grandis come mai le ferrovie non abbiano subito particolari contestazioni per le opere realizzate, e ha definito appunto un anno, se non ricordo male, eccezionale, il 2009. Noi abbiamo fatto tantissimi investimenti in questi ultimi anni, il completamento dell'alta velocità da Torino a Salerno ne è un esempio, sono 1000 chilometri di rete nuova in luoghi anche molto sensibili, e non abbiamo avuto particolari contestazioni, intendendo per contestazioni delle vere quantità di opposizione all'opera. Abbiamo avuto normalmente una buona collaborazione con le istituzioni e anche i luoghi per poter far condividere alle persone gli inserimenti territoriali. Abbiamo invece delle difficoltà laddove, prima ancora che i cittadini, vi è una contrapposizione delle istituzioni locali. E allora bisogna meditare su questo, bisogna meditare sul modo di come coinvolgere le istituzioni locali, che sono sempre l'espressione dei cittadini, ma a volte sanno anche in qualche modo alterarne il parere e il consenso. L'esempio più tipico sulle Alpi, confronto sempre la situazione che abbiamo sul Brennero, dove non ci sono particolari problemi, e sulla Val di Susa, sono opere assolutamente comparabili, con territori assolutamente comparabili, però la storia sono completamente diverse. E allora lì, cito, abbiamo invitato il numero dell'FS Moretti a tornare anche a parlare di questo programma, cito molti sms che dicono: ma come, un anno incredibile, quando si sono segnalati molti problemi sulle tratte dei pendolari, quando i treni ad alta velocità non hanno funzionato, sono arrivati in ritardo, quando sono stati ridotti in maniera secondo alcuni inaccettabile, i treni non ad alta velocità, quindi più economici nelle tratte principali, penso alla Milano Roma, e poi alcuni ricordano anche i costi quadruplicati dell'alta velocità tra Milano e Torino. Adesso le informazioni per chi è in viaggio, e poi Federmeccanica, ossia 1 milione di addetti, 12.000 imprese, un 2009 che si è chiuso con un meno 27% nella produzione industriale. 349-238-6666 per gli sms. Allora, ieri ci siamo occupati del bilancio sul 2009 per l'export, mai così male dal 1970, ma anche delle prospettive, quindi la Germania che continua a importare poco, segno negativo dall'Italia, e l'esigenza per le nostre imprese di spostarsi su altri mercati. Oggi continua il nostro viaggio sui settori industriali, il 2009, ma soprattutto gli ultimi mesi ci interessano del 2009 per capire come si è iniziato l'anno. Siamo in collegamento e lo saluto con Roberto Santarelli, direttore generale di Federmeccanica. Buonasera. Buonasera. Voi raggruppate 12.000 imprese con oltre 900.000 addetti, quindi stiamo parlando di un settore fondamentale per la nostra produzione industriale e per il nostro PIL. Allora, il bilancio 2009, come immaginabile, è pesante, è anche più pesante della media, perché il vostro settore ha avuto più difficoltà di altri, penso al settore alimentare, al settore dei consumi di generi primari, ma anche alla voce turismo. Meno 27%, come si è chiuso però l'anno, cioè il quarto trimestre del 2009 sul terzo trimestre del 2009, per capire, diciamo, la ripresa che qualità abbia. Sì, no, come lei giustamente sottolineava, il 2009 è stato un anno molto pesante per l'industria nel suo complesso e per l'industria metalmeccanica in particolare. Tenga conto che mentre il dato medio dell'industria è un meno 17%, il dato della metalmeccanica è meno 27%. Questo significa che gli altri comparti ovviamente hanno migliorato la media, insomma, da questo punto di vista. E quindi siamo molto più penalizzati. Siamo molto più penalizzati perché la tipologia delle produzioni metalmeccaniche è esattamente quella più colpita. Noi sostanzialmente produciamo beni di investimento da un lato e beni di consumo durevole dall'altro, che guarda caso sono proprio le due componenti di domanda che più hanno risentito della crisi. Quindi l'anno complicato, nell'ultimo trimestre dell'anno, insomma, sì, abbiamo assistito a qualche timidissimo cenno di ripresa, molto timido, credo che la ripresa che si annuncia è molto lenta, è molto incerta e non ci attendono mesi facili, ecco, da tutti i punti di vista. Sì, voi avete avuto un dato sul quarto trimestre dell'anno che rispetto al terzo trimestre fa addirittura un meno uno, però forse c'è un problema anche di calcolo statistico sui giorni non lavorati, però insomma sicuramente al di là del meno 1, che magari è un meno 0,5 o è un invariato, sicuramente è una ripresa molto lenta, come le dicevo, cioè a giudicare da come gli ultimi tre mesi del 2009 hanno fatto rispetto ai tre mesi precedenti. Tra l'altro il dato dalla primavera del 2008 a oggi fa obiettivamente impressione, meno 35% nella produzione, cioè se uno fatturava 100 milioni ne fattura adesso 65. Esatto, questo significa che le nostre imprese, voglio dire, hanno un potenziale produttivo e sono strutturate con impianti, con macchine, con uomini per produrre oltre circa un terzo della propria produzione in più rispetto a quella che producono. E questo è un bel problema, voglio dire. Ecco, sul fronte occupazionale, perché è chiaro che oltre 900.000 addetti che voi rappresentate in queste 12.000 imprese, abbiamo visto un aumento della cassa integrazione, 480 milioni di ore avete chiesto nel 2009, un più 480% rispetto all'anno precedente di ore di cassa integrazione. Si sta stabilizzando il dato negli ultimi mesi? Sì, diciamo che pur essendo un dato molto elevato, anche storicamente molto elevato, però nell'autunno, da settembre in poi, diciamo, il dato si è stabilizzato intorno a un numero molto elevato, che sono 50 milioni di ore mese. Il primo dato di quest'anno, che si riferisce a gennaio, sembra è leggermente migliore, siamo intorno ai 46 milioni, quindi sempre numeri imponenti, ma migliori di quelli che abbiamo conosciuto nel 46 milioni di ore di cassa integrazione a gennaio contro i 50 di media Esatto, un leggero calo. Preoccupazione però, è inutile nasconderci dietro un dito, da parte anche dei sindacati, sappiamo appunto che il vostro è un settore alta occupazione. Sentiamo il segretario generale della UILM, Rocco Palombella, intervistato dal nostro Vincenzo Minietta proprio a margine della presentazione oggi dei vostri dati. Qual è la nostra sensazione? La nostra sensazione è che gli ammortizzatori sociali stanno terminando la loro funzione e adesso si passa alla fase invece della crisi più acuta. Avvertiamo che diverse imprese non sono più in condizione di poter reggere gli ammortizzatori sociali. È tutto un tessuto industriale che ha continuato, diciamo, a lavorare all'ombra della grande impresa. In questo momento qui non è più in grado di poter reggere questa situazione. Concentrandoci sul settore auto, è solamente un problema di Termini Imerese o c'è invece un problema occupazionale più ampio, nazionale? Ma io ritengo che il settore auto, come il settore degli elettrodomestici, dipende molto, diciamo, dall'andamento economico e dalle abitudini dei cittadini. Per cui gli aiuti hanno determinato, diciamo, un alleggerimento della crisi, per cui si sono avuti dei benefici. Adesso però il problema è un problema complessivo, non può essere affrontato a pezzi. Il problema di Termini Imerese e dell'indotto è solo, diciamo, una punta di un problema molto più grave e molto più complesso. Allora, direttore generale Santarelli, abbiamo sentito i sindacati che dicevano: attenzione, l'effetto degli ammortizzatori sociali, cioè della cassa integrazione, sta terminando, e da un lato il problema non può essere ricondotto a singoli casi, ma è un problema che va affrontato complessivamente. Mi sembra che ci sia una richiesta di politica industriale complessiva e non solo di affrontare singoli casi di crisi. Le chiedo, vi attendete degli incentivi, vi attendete, insomma, che cosa chiedete anche al governo, visto che con i sindacati mi sembra che in questo momento le tensioni non siano altissime? No, devo dire, nonostante noi siamo reduci dalla firma di un contratto nazionale non sottoscritto dalla FIOM, dalla maggiore dell'organizzazione della FIOM, però onestamente non mi pare che ci siano, non mi risulta, non si evidenziano particolari situazioni di tensione, se non su punti di crisi specifici, appunto, come quelli, alcuni sono stati anche menzionati ora da Palombella. Certamente abbiamo bisogno di una politica industriale che ridia un po' di fiato, un po' di smalto alla nostra industria. Gli strumenti sicuramente sono quelli tipici, voglio dire, di una economia che sta soffrendo di un livello di consumi stagnante, da investimenti in caduta libera e da un mercato internazionale sul quale onestamente possiamo far poco, che stenta a recuperare. Oltretutto con un ridisegno complessivo della geografia, diciamo, globale dei flussi esportativi. Tutti ci dicono, tutti gli organismi anche sovranazionali, come anche le previsioni siano di una ripresa assolutamente non omogenea nelle diverse aree del pianeta, con un sud-est asiatico che, insomma, ha sempre slancio e forza. Io sottolineerei un dato: la Cina in questi 4 anni, diciamo, dal 2008-2009 di crisi e 2010-2011 in cui noi ci aspettiamo una ripresa molto lenta, la Cina in questi 4 anni cresce più del 40%. Ecco, su questo Santarelli, ieri, commentando i dati sull'export, brutti, mai così male dal 1970, quello che emergeva chiaramente però è che la Germania anche negli ultimi mesi del 2009 non è tornata a chiedere, a importare Made in Italy, che per voi, che vuol dire soprattutto in Germania, oltre ai prodotti classici, macchinari utensili, macchine per costruire altre macchine. E mentre i dati migliori si vedevano proprio dalla Cina, allora da quello che noi osserviamo, la Germania sta acquistando i macchinari, diciamo, non tutti, adesso estremizzo un po', che prima comprava dall'Italia, li compra dalla Cina. E a questo punto è ovvio che l'obbligo per l'Italia è spostarsi su altri mercati, in primo luogo quello cinese, ma anche il Brasile, l'India, insomma, chi sta tirando e ha bisogno di macchinari per costruire macchine e comunque di meccanica industriale. Le chiedo, qui il problema che si pone però è delle dimensioni, cioè esportare in Germania è più facile che esportare in Cina, certo, se tu sei piccolo. E le reti lunghe, insomma, non si vedono ancora quelle forme appunto di organizzazione, di vendita, di rappresentanza che ti permettono di arrivare fino in Cina. Cosa state facendo voi per i vostri associati? Ma noi, intanto, onestamente, noi come Federmeccanica abbiamo una competenza prevalentemente su temi sociali e del lavoro, più che su quelli direttamente economici. Comunque il dato che lei sottolineava è un dato assolutamente vero, dicevo, c'è una ridislocazione dei flussi commerciali su tutto il pianeta, che non riguarda mica solo l'Italia e la Germania, riguarda tutti coloro che sono esposti sui mercati. Tenga conto che il settore metalmeccanico esporta ben oltre il 50% del proprio fatturato verso paesi appunto esteri, e di queste esportazioni fino ad oggi, diciamo, quasi il 60% è stato destinato ai mercati europei, ma sicuramente se vogliamo riprendere ruolo e volumi dobbiamo pensare a spostarci su mercati diversi, anche perché sono quegli altri mercati che mostrano dinamicità e capacità di assorbimento di prodotti. Oltretutto il fenomeno che lei sottolineava è che la Germania comincia a importare macchine da paesi che finora non erano presenti su questo tipo di tipologie produttive esportative. E quindi di mercato. Grazie al direttore generale di Federmeccanica Santarelli per comunque aver risposto anche alle nostre domande. In bocca al lupo a lei, a tutti, soprattutto alle 12.000 aziende e a quasi milioni di dipendenti. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.